Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e sei minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia con una nuova sigla. Ringrazio la regia della sorpresa. Vedremo quanto reggerà, però, nel senso che dobbiamo testarla. E rinizia, come già da questa mattina, il palinsesto autunnale e invernale di Radio 24, così come rinizia anche la cronaca della giornata economico-finanziaria, che oggi vede, al di là di alcune brevi notizie sul tema petrolio, di cui parleremo subito in apertura, un bilancio, diciamo, del G20 che si è concluso. G20 che riguarda anche l'Italia, ma riguarda anche temi di carattere veramente internazionale. Penso all'intesa sull'acciaio per quello che riguarda la produzione cinese, penso poi anche al giudizio che è arrivato sull'Italia. Oggi Wall Street è chiusa, quindi mi sposto sulle borse per il Labor Day, e quindi, diciamo, manca, come si dice in gergo, il faro americano, riferimento americano. Parigi invariata, Francoforte invariata, Londra meno 0,1% e Milano è assolutamente invariata, 0,0,0. I titoli: Banco Popolare più 4,54%, Pop Milano più 2,31%, Saipem più 1,50%, Azimut più 1% come Eni, Moncler guadagna lo 0,80% come Snam. Chi perde: Buzzi Unice meno 2,20%, Generali meno 1,30%, Exor meno 1,20%, Luxottica meno 1% come Monte dei Paschi, e Yux, Net-a-Porter e anche Mediaset perde l'1%, Telecom lo 0,90%. Euro a quota 1,11 nei confronti del dollaro. Parleremo, dicevo, del G20 sul doppio fronte internazionale, quindi accordo in primo luogo acciaio di carattere internazionale, e poi parleremo anche del G20 sul fronte italiano. Dell'economia italiana riparleremo, anche per capire alcuni elementi che sono emersi dalla 3 giorni di lavori al workshop Ambrosetti di Cernobbio. Elementi positivi: alcuni dicono sì, ma la platea è particolarmente positiva, è formata da rappresentanti di imprese che già vanno bene. In realtà anche nell'indice elaborato come ogni anno e presentato ieri si segnala, mettiamo così, un atteggiamento ancora positivo ma in rallentamento sugli scenari economici, chiaramente nel giorno in cui, e qui veniamo alle notizie di cronaca, l'Istat nella nota mensile sottolinea come l'economia italiana ha interrotto la fase di crescita condizionata dal lato della domanda, dal contributo negativo della componente interna, dal lato dell'offerta, dalla caduta produttiva del settore industriale. L'indicatore anticipatore dell'economia rimane negativo a luglio, suggerendo per i prossimi mesi un proseguimento nella fase di debolezza dell'economia italiana, e queste non sono buone notizie. Sempre l'Istat nella nota mensile registra una dinamica del mercato del lavoro che ha subito anche a luglio una battuta d'arresto. Gli occupati sono diminuiti di circa 63.000 unità dopo 4 mesi consecutivi di aumento, e la riduzione riguarda esclusivamente gli indipendenti e in misura maggiore la componente femminile, meno 51.000. Invece aumenta l'occupazione tra gli over 50, in rialzo per chi ha più di 50 anni, in rialzo per il settimo mese consecutivo da inizio anno. Se si guarda al trimestre maggio-luglio, l'occupazione è comunque aumentata dello 0,7% rispetto al trimestre di un anno prima, sono 157.000 unità. Infine rallenta anche l'indice del settore manifatturiero dei servizi, l'indice PMI, scende a 51,9 punti contro i 52,2 punti. Va meglio l'indice relativo ai servizi rispetto a quello relativo al settore manifatturiero. Insomma, tutto questo va, pur con moltissimi distinguo e con molte fragilità in questi dati, va in una direzione di un rallentamento complessivo dell'attività produttiva. Vedremo di che intensità, e vedremo nei prossimi mesi anche se vi potrà essere un'inversione di tendenza. Parleremo anche, so che ne ha parlato anche fino a poco fa Oscar Giannino, anche del voto tedesco. Per carità, uno può dire è un voto locale. No, perché le motivazioni di questo voto sono di carattere internazionale, chiamiamolo così, uno di carattere, o meglio di carattere europeo, gestione dei flussi migratori, l'analisi ormai è abbastanza chiara, e dall'altro anche politiche economiche dell'Europa, che tipo di approccio economico vuole avere l'Europa, e anche di questo parleremo. La sconfitta è stata netta e lo ha riconosciuto la stessa Angela Merkel, dichiarando oggi di essere molto scontenta per l'esito delle elezioni regionali ieri in Mecklenburg, dove appunto la CDU è scesa al 19% dei voti, superata dal partito di destra antimigranti, che alcuni chiamano populista, Alternativa per la Germania, ha ottenuto il 20,8%. In realtà a vincere sono stati i socialdemocratici con il 30,6% dei voti. La CDU ha perso 4 punti percentuali rispetto al 2011. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms e per WhatsApp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Riprendiamo le, come si dice, le vecchie abitudini, partendo dai 100 secondi di Radio 24, sulle 24 ore, che vengono trasmessi ogni giorno anche su Radio Dimensione Suono. Oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula, proprio sul tema delle pensioni minime, perché oggi in un'intervista al magazine Vita, magazine no profit Vita, che sarà in edicola il prossimo 9 settembre, ma oggi vi sono molte anticipazioni sulle agenzie, il premier Matteo Renzi ha detto tra le altre cose che il governo sta pensando a una misura di equità sulle pensioni minime e a nuove misure, nuove risorse sul contrasto alla povertà. I 100 secondi. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. È arrivata dal ministro del lavoro Giuliano Poletti l'ulteriore conferma degli interventi sulle pensioni nell'ambito della nuova legge di bilancio, che, ricordiamolo, da quest'anno diventa lo strumento legislativo che assorbe e sostituisce la legge di stabilità. In questi giorni vanno via via a prendere forma le misure alle quali lavora il governo, e per restare alle pensioni sembra confermato che stiamo parlando di un intervento il cui valore è quantificato in 2 miliardi di euro. Non è tantissimo, ma insomma qualche cosa si potrà fare, come appunto ha detto ieri il ministro Poletti. Di certo arriverà una delle misure più attese, ovvero l'APE, cioè l'anticipo pensionistico, che consentirà di lasciare il lavoro con 3 anni di anticipo rispetto ai requisiti di legge, grazie a un prestito bancario che sarà fatto a tassi vantaggiosi, ma che comunque andrà restituito successivamente, quindi avrà l'effetto purtroppo di ridurre l'importo della pensione futura. Altre misure riguarderanno i lavori usuranti, i lavoratori precoci, certamente ci sarà qualcosa che riguarderà le ricongiunzioni. L'altro capitolo importante è quello delle pensioni minime, quelle che oggi equivalgono a circa 500 euro al mese. Che cosa si farà dipenderà anche dal confronto che il governo ha in corso con le organizzazioni sindacali, quindi vedremo i particolari tra qualche giorno. A disposizione però dovrebbero esserci 700-800 milioni di euro, una cifra che tuttavia non dovrebbe consentire interventi molto ampi, generalizzati, ma piuttosto misure molto selettive per sostenere e aiutare i soggetti che sono in maggiore difficoltà. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, le altre notizie in breve prima di arrivare al primo tema di approfondimento. Dicevo del petrolio, merita un approfondimento, perché Russia e Arabia Saudita hanno siglato una dichiarazione congiunta che vorrebbe portare alla stabilizzazione del mercato del greggio, firmata tra l'altro a margine del G20 in Cina dai due ministri dell'energia, il russo Alexander Novak e il saudita Khalid Al-Falih. Per ora non si va verso un congelamento della produzione, lo ha dichiarato il ministro saudita, però sia Russia che Arabia Saudita hanno dichiarato di possedere degli strumenti concreti per influire sul mercato del petrolio, compreso il mantenimento dei volumi di produzione, cioè il cosiddetto congelamento. Traduco: non congelano adesso la produzione, ma lasciano aperta, molto aperta, questa ipotesi. Il petrolio ne ha preso atto, crescendo per quello che riguarda il WTI a quasi $45 il barile, più 1,20%. Il Brent, quello invece del Mare del Nord, è a $47 il barile, più 0,80%. Vedo molti messaggi sul G20, ne parleremo. La Cina ha accettato di tagliare, di ridurre l'export di acciaio senza però fissare dei tetti di riferimento. Vi sarà il monitoraggio dell'OCSE sulla sovrapproduzione cinese, e poi altri accordi più o meno laterali di cui parleremo nel corso del programma. Ancora, andando avanti con le notizie di oggi, ma sull'Europa, c'è un dato oggi che riguarda il commercio al dettaglio. Per l'Italia si tratta di un dato confidenziale, però nell'area euro è salito dell'1,1%, con aumenti maggiori in Lussemburgo, Portogallo e Germania, cali più significativi in Slovacchia, Svezia e Danimarca. Dalla Germania arriva un dato in linea con quello complessivo europeo, che ha visto l'indice PMI, quello che citavamo prima per l'Italia, calare a livello europeo ai minimi da 19 mesi a questa parte. È l'indice composito che va a monitorare l'andamento dei settori manifatturieri e dei servizi. Dicevo, il calo così forte però si giustifica perché è calato molto in Germania. La Germania ha visto un indice scendere a 53,3 punti, tra l'altro conto una stima di 54 punti e mezzo, e questo, diciamo, va a integrarsi, diciamo, con tutto un insieme di tensioni di carattere soprattutto politico. Sull'Italia, le entrate fiscali nei primi 7 mesi più 3,8% senza includere il canone e il bollo auto, lo comunica oggi il Ministero dell'Economia e Finanze, segnalando come in base al criterio di competenza le entrate tributarie erariali nei primi 7 mesi tocchino i 243.858 milioni, cioè 243 miliardi, in aumento del 3,8%, sono 9 miliardi in più rispetto allo stesso periodo del 2015, appunto. Neutralizzando gli effetti sul gettito dei versamenti dell'imposta di bollo e quelli del canone televisivo, la crescita sarebbe comunque in aumento del 5%. Bene anche l'IRES, più 1,3 miliardi come gettito, più 10% l'incremento dell'IRES nel periodo gennaio-luglio, e l'IVA più 7,6% a 63 miliardi, quasi 64, più 4,4 miliardi. E gli introiti da giochi segnano nei primi 7 mesi una crescita di quasi il 20%, più 19%, 1 miliardo e 332 milioni. Tra l'altro sono invece dimezzate, sempre nei primi 7 mesi dell'anno, le entrate relative alle imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, per effetto, insomma, di quello che è successo sui mercati finanziari. Infatti lo stesso Ministero dell'Economia e Finanze dice che la notevole flessione è da attribuirsi ai rendimenti dei prodotti finanziari oggetto di investimento delle quote dei fondi pensione. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, whatsapp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Partiamo con il primo tema, questo G20 sul doppio fronte, accordi di carattere internazionale e da un lato invece anche il ruolo e quello che è stata la valutazione, diciamo, dell'Italia all'interno dei G20. We'll be right back. Allora, la bozza cita, come era prevedibile, che l'impegno a stimolare una crescita inclusiva, solida, sostenibile e l'occupazione, è una crescita inclusiva e globale, è un nuovo patto per la crescita globale. E poi il numero uno del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, che al termine del G20 ha detto che bisogna respingere con forza ogni forma di protezionismo e andare avanti con lo sviluppo di un commercio libero ed equo, che è vitale per la crescita globale. Forse il no al protezionismo, e qui poi vengo anche al tema dell'acciaio cinese, è parso l'elemento più nuovo. Chiedo conferma all'economista che insegna economia internazionale al Politecnico, al MIP del Politecnico di Milano, Fabio Sdogati. Buonasera. Buonasera a voi. Sdogati, mi sembra di poter dire che, insomma, al di là della dichiarazione che ogni volta leggiamo, bisogna stimolare crescita, inclusive lavoro, quando mai uno può fare un comunicato finale dicendo che bisogna ridurre l'occupazione, ridurre essere esclusivi, creare disuguaglianze e abbattere il PIL. Quindi qui siamo, diciamo, alla messa cantata. Però, andando a cercare qualche elemento di novità, al di là di questo accenno alla crescita inclusiva e globale, il protezionismo, forse alla luce anche delle tensioni che abbiamo registrato sul TTIP, immagino, la settimana scorsa, il tema che forse ha portato qualche novità in più? Ma direi di sì, direi che ancora una volta siamo d'accordo. Lei è una vecchia volpe di queste cose, quindi riconosce subito le messe cantate. Preferirei essere solo volpe, comunque va bene così. Quando vicino al sostantivo crescita bisogna aggiungere inclusiva, solida, sostenibile, gli aggettivi cominciano ad essere tanti, e tanti più sono gli aggettivi, tanto meno è credibile l'obiettivo. Insomma. Allora, ricordiamo che questo è il problema. Questo è il problema dal 2008, tanto è vero che perfino il Fondo Monetario Internazionale poche settimane fa non parlava tanto di protezionismo quanto di necessità di rilanciare con tutti gli strumenti, quindi anche con la spesa pubblica, l'attività produttiva mondiale. C'è stato questo, non direi cambiamento di focus, ma insomma c'è stata una maggiore enfasi sul protezionismo. Io sono contento non del cambiamento di focus, ma che si sia parlato di protezionismo, perché credo che parli poco. Cioè, noi stiamo sottovalutando molto, per esempio, no? la questione del Brexit. Allora, Brexit lo stiamo guardando tutti, me compreso, come problematica per l'Unione Europea, gli effetti che può avere sull'euro, gli effetti che può avere. Ma non ci rendiamo conto che è una forma di domanda di protezionismo. Cioè, come non solo, se mi permette, non solo delle merci, ma anche sui flussi migratori, se vogliamo utilizzare questo. Prego. No, va detto sicuramente. E questo è un fenomeno, quello del protezionismo sui movimenti di persone, di merci, e pianino pianino lo sarà anche di capitale, probabilmente. È un avvenimento tipico delle fasi post-crisi, cioè le crisi economiche, no? Non lasciano soltanto un tasso di crescita del PIL basso o negativo, o quella che secondo me ormai possiamo chiamare una stagnazione secolare, ma lasciano un desiderio diffuso, crescentemente diffuso, di isolamento. Quindi, mentre noi eravamo abituati, noi economisti in particolare, eravamo abituati a pensare al protezionismo come dazi e tariffe, sì. Come dazi, no? Questo era tutto il periodo post seconda guerra mondiale, è stato un periodo che abbiamo giudicato estremamente positivo. Perché? Perché mese dopo mese, anno dopo anno, cadevano muraglie contro la libera circolazione, soprattutto di merci, ma anche di persone, e quindi siamo un po' abituati a pensare a quello. Come un fatto permanente. Invece il protezionismo sta riemergendo, che questi politici se ne siano accorti, ne abbiano parlato esplicitamente addirittura il Fondo Monetario Internazionale, come dico, abbia messo la questione sul tappeto, è un fatto cruciale. Io credo che stiamo correndo il pericolo di avvitarci in una fase un po' pericolosa. Sì, devo dire che il suo ragionamento si salda, volendo fare dei voli pindarici, ma nemmeno tanto, con quanto capitato ieri in Germania, di cui parleremo dopo, dove la richiesta non è di protezionismo esplicita, ma è sicuramente cioè, l'avanzare della destra populista, anti-immigrati, anti-Europa. Insomma, non ci vuole un genio della politica per capire quali istanze porti a partire dai flussi migratori. Abbiamo Trump, che mi sembra che quanto protezionismo ci siamo, anche insomma, come approccio complessivo, qualcuno potrebbe addirittura citare la dottrina Monroe americana, ma mi sembra troppo per Trump in questo caso, però e tutte le spinte, e lei citava giustamente la Brexit. Come giudica però la posizione cinese sull'acciaio? Cioè, la Cina, allora, è vero che non ha voluto fissare un tetto, diciamo, come export di acciaio, però si è impegnata, e c'è un accordo su questo, a ridurre l'export di acciaio, e vi sarà un monitoraggio dell'OCSE. Se secondo lei la Cina sta capendo che dà anche lei un segnale sul protezionismo che lei ha applicato a man bassa negli anni passati, o ne pagherà anche lei le conseguenze? Ma io ho una visione un pochino diversa. Bene. Da questa, nel senso che io ricordo sempre con grande piacere il G20 del 2008. Mm-hmm. Nel 2008 noi non sapremo mai se la Cina fu costretta a, o propose lei di, essere il primo governo, il primo paese ad adottare una politica fiscale espansiva, cioè spesa in disavanzo, con l'obiettivo specifico di aiutare il mondo ad uscire dalla crisi. Quindi quella per me è stata la grande svolta, no? Io mi ricordo ancora quel numero. Diciamolo questo: nel 2008 la Cina si è, tra virgolette, accollata. Certamente. Il compito, visto che c'erano gli Stati Uniti in ginocchio dopo Lehman Brothers e con un piano enorme da 12.000 miliardi di dollari, in ginocchio e con due presidenti, no? Un uscente e un entrante, l'Europa che non aveva ancora capito che gli sarebbe arrivato addosso tutto con gli interessi. E la Cina prese l'onere, tra virgolette, di dire: beh, io continuo a spendere a deficit per creare anche dei consumi, non solo delle esportazioni, e fare in modo che non vada sotto zero la crescita mondiale. L'ho interrotta però, Sogatti. No, ma per carità, è una discussione che mi piace tantissimo. Voglio dire, io ha fatto bene a puntualizzare queste cose. Il governo cinese si indebitò per 576 miliardi di dollari, pari al 16,1% del prodotto interno lordo, quando le vergini vestali dell'Unione Europea non vollero neanche sentir parlare di altro che non fosse uno zero virgola, condannandoci a quello che stiamo vivendo. Allora, io in quell'anno la mia percezione della Cina cambiò. Io credo che oggi la Cina stia facendo una cosa di quel genere, non così grande, non così robusta, non così importante. Quindi io do un giudizio molto positivo. Non è una cosa che la Cina ha subito stavolta, è un'offerta che ha fatto e può permettersi di farla. Trovo però, cambiando un attimino prospettiva, anche qui scandaloso che questo sia stato chiesto alla Cina. Cioè, stiamo facendo delle storie, dei discorsi incredibili sul libero commercio, sul commercio inclusivo, sugli investimenti, sulla libera circolazione dei capitali, delle persone e dei beni, e poi vediamo un paese e diciamo: bene, adesso te ti mettiamo quello che ai miei tempi, quando io studiavo ancora, si chiamava restrizioni volontarie alle esportazioni. Questo non va bene, perché allora, adesso io ho il metodo e la pubblicità. Dopo l'interruzione, però, vorrei che rispondesse a quest'ultima domanda. Voglio essere malizioso, forse forzo un po' l'analisi, però in questo G20 perché si chiede alla Cina una cosa dopo aver detto liberalizziamo, però tu Cina adesso metti contieni contingente alle produzioni di acciaio? Perché abbiamo un presidente statunitense, Barack Obama, che è in scadenza, completamente scaduto, diciamo, de facto, tant'è che pure il leader filippino si permette di insultarlo. Abbiamo Angela Merkel che, mentre è in Cina, si becca una batosta elettorale, e di cui parleremo dopo. Matteo Renzi che è alle prese con un referendum, e sappiamo tutti la delicatezza di questo tema. Aggiungo Hollande, dove si è dimesso la settimana scorsa un ministro come Macron per andare a fare il suo partito. Chi mi manca? La Gran Bretagna è fuori dall'Unione Europea. Non è che a sto punto la Cina diventa l'unico paese a cui puoi chiedere qualcosa perché è un interlocutore politicamente più stabile rispetto a quelli che ho appena citato? E questo però la dice lunga su il perché da un G20 escano dei comunicati un po' da messa cantata, che a me danno la sensazione anche di essere di seguire poco quello che sta capitando come movimento, diciamo, elettorale, di opinione pubblica nei singoli paesi? La risposta dopo il meteo e la pubblicità, 349-238-6666 per sms, whatsapp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, professor Sdogati, non è che la Cina sia l'unico interlocutore a cui chiedere qualcosa, perché tutti i paesi che ho elencato, Stati Uniti, Germania, Francia, Italia, politicamente, insomma, hanno dei bei dolori? Ma è un'ipotesi molto plausibile, perché se diamo retta, prestiamo attenzione al quadro che lei ha fatto, troviamo la conferma di questo stato di sospensione in cui ci troviamo, per esempio nel Standard & Poor's. L'indice Standard & Poor's nell'ultimo mese non si è mosso neanche dell'1%, cosa che non è mai successa. Quindi c'è un vuoto di potere, anche se l'espressione è un po' grossa, lo chiameremo la fine del mandato di Obama per ora. C'è una concatenazione di elezioni e di scadenze, ma soprattutto, io ho scritto di queste cose, quindi dirle non mi crea nessun problema, c'è una povertà della classe politica dirigente in tutta Europa. Povertà o scarsa lungimiranza, forse? Sì, io lo intendevo in questo senso, incapacità a fare la classe dirigente. Cioè noi quando parliamo di populismo, molto spesso non ci rendiamo conto che esiste anche la parola opposta che descrive il populismo, l'espressione opposta, che è carenza di elite politiche. Allora, il populismo emerge quando si fa votare il popolo, dice Spaghetti è diventato fascista. No, questo non c'entra nulla. Prendiamo Tsipras in Grecia a luglio dell'anno scorso. Tsipras fa votare il popolo, dopodiché fa esattamente l'opposto del mandato che il popolo gli ha dato. La May, quello che sta succedendo alla May è qualcosa di incredibile, cioè lei adesso comincia a dire non si fanno i giochini col Brexit, si contratta, si cerca di vedere, di stare dentro, mo vediamo, Johnson si arrabbia, quindi forse con l'eccezione della Merkel noi abbiamo classi elite politiche veramente molto deboli. Voglio dire, lo so che non serve a niente rievocare i grandi nomi, no? Però li riconoscevamo i grandi quando c'erano. Si sa, per me la battuta è anche facile, Sdogati, perché se poi l'unico leader, io posso essere d'accordo nel giudizio complessivo che Angela Merkel abbia forse, però se poi l'unico leader con visione è la Merkel che ci ha condannato a 8 anni di austerità, boh, non lo so, peggio mi sento. Cioè, se quello io con questa proposizione sono in disaccordo da anni. Sono stati tutti e 18 i governi dell'area euro che hanno voluto l'austerità, tutti e 18, Sarkozy, Monti, Merkel, tutti l'hanno voluta, che poi faccia comodo chiamarla la dittatura tedesca, va benissimo, o la scuola tedesca, ma questa l'hanno voluta. Ricordiamoci le balle che si raccontava nel 2011, quando si raccontava che c'erano 500 punti base di differenziale tra buoni tedeschi e buoni italiani, perché avevamo un debito alto, debito sul PIL alto. Oggi, dopo 5 anni, ce l'avevamo molto più alto, spread chiaro. È un quinto. Perché? Beh, c'è stato anche Mario Draghi. Sdogati, sono d'accordo con lei che ci fosse una componente politica e di speculazione per vedere se saltava l'euro, l'abbiamo detto mille volte. Poi ricordiamoci anche che nel frattempo santo Mario Draghi, che adesso si trova in una grossa difficoltà, ha creato la politica di tassi a zero, di acquisto di titoli di Stato, di meccanismi di salvataggio sui paesi che sotto attacco e quant'altro, che quello anche c'è, lo vediamo sui rendimenti. Io volevo solo ricordare che oltre a San Mario Draghi c'è stato anche Mario Monti e non soltanto Angela Merkel, ma quello che sta dicendo è per molti è meno santo, diciamo. Io ho evitato accuratamente l'aggettivo. Allora, quello che lei sta dicendo è cruciale, cioè l'emergere della politica monetaria, l'emergere degli impiegati, e lo dico non in modo insultante, ma nel senso di persone senza mandato elettorale, che curano la politica economica, è evidentemente la controparte, no, di una carenza della politica, cioè di quella parte delle élite che sono state elette e hanno ricevuto un mandato. A me non mi importa che siano di destra o di sinistra, c'è la differenza fra chi deve fare politica e chi deve fare l'impiegato. Draghi è bravissimo, io lo stimo moltissimo, sono grato che lui abbia preso la presidenza dopo quel signore che si chiamava Trichet, ma la sua potenza è l'evidente incapacità dei politici di guidare il processo economico. Sono d'accordo. Diciamo che quando i tecnici devono guidare processi politici, si capisce che i politici evidentemente non stanno guidando. Però l'autobus ha bisogno di una guida politica, non solo di una guida di un tecnico. Dico con massimo rispetto, Mario Draghi può fare il meccanico dell'autobus, ma poi la direzione della strada la deve dare la politica democraticamente eletta. Grazie, professor. Lui povero lo ripete in continuazione. No, questo è vero, perché, anche perché aggiungo, oltre che essere un principio corretto, Draghi si rende conto che se non c'è una sponda poi di scelta politica su quello che vogliamo fare di questa Europa come investimenti, lui non solo non ce la fa, ma rischia di far cadere, di beccarsi poi l'accusa di aver fatto cadere interare euro nella trappola di liquidità, cioè il denaro non costa niente, i tassi sono a zero, si crea una bolla di liquidità e nessuno la usa perché tanto non fa gli investimenti. Resti con noi Sdogati, perché abbiamo raggiunto anche l'inviato del Sole 24 Ore in questi giorni in Cina per il G20, mi riferisco a Gerardo Pelosi. Gerardo, buonasera. Buonasera a voi. Allora, due passaggi li ascoltiamo assieme di Renzi in conferenza stampa al tema dei G20, perché adesso parliamo d'Italia, la stabilità finanziaria che deve includere i cittadini e il populismo. Su questo siamo d'accordo, che si combatte con una strategia politica globale, poi bisogna farla però. Sentiamo. Discussione sulle questioni finanziarie, l'architettura finanziaria e la stabilità finanziaria. Noi abbiamo evidenziato che una stabilità finanziaria priva dell'inclusione dei cittadini, una stabilità finanziaria che non plachi le paure della classe media, è una stabilità finanziaria che va bene per i convegni, ma non per la vita di tutti i giorni. E questo è un grande tema che l'Italia ha ribadito praticamente in tutti gli interventi che abbiamo fatto. G20 si è confermato un foro particolarmente utile e interessante. Ovviamente se sono rose fioriranno e lo vedremo nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, è impensabile dare un giudizio a caldo. Mi pare che vi sia una grande consapevolezza del fatto che le parole d'ordine, lo dicevamo ieri, possono cambiare. Crescita e inclusione, crescita e equità, giustizia sociale, temi che fino a qualche tempo fa sembravano molto lontani. La lotta al populismo si fa anche e soprattutto attraverso una capacità di sconfiggere la paura e le paure del nostro tempo. E per sconfiggere la paura e le paure del nostro tempo è necessario avere una strategia politica globale che metta l'accento, come noi abbiamo detto e fatto, su tutto ciò che serve in termini di riforme strutturali, ma contemporaneamente non lasci indietro, anzi metta in chiave, in luce, la necessità delle politiche inclusive, delle politiche di equità. Anche questo è un pezzo di strategia economica, oltre che di strategia politica. Allora, così il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Gerardo Pelosi, ricollegandomi a quello che diceva prima il Professor Sdogati, insomma, come Cina, unico paese in cui la leadership politica non è in discussione, a differenza dell'America che va sotto elezione, della Germania che ha preso una batosta elettorale, dell'Italia che ha un referendum, della Francia che si vede sfilare il Ministro dell'Economia Macron perché fa il suo partito. Tu l'hai registrata seguendo questo G20 e poi vorrei capire anche invece l'apprezzamento, se vi è stato, sull'Italia. Prego, Gerardo. Ma Renzi, voi avete dato le parole di Renzi oggi, ma già ieri, alla fine della prima giornata, il Presidente del Consiglio ha fatto capire che in realtà la parola d'ordine nuova rispetto a quello che era un poco il mantra di tutti questi vertici G20, e cioè la, la crescita forte, sostenibile, eccetera, è il termine inclusiva, cioè l'equità. È un concetto che è stato introdotto per la prima volta al vertice australiano di Brisbane, al G20 di Brisbane, è stato rafforzato da quello turco di Antalya l'anno scorso e ha avuto un po' la consacrazione quest'anno. È un concetto per il quale hanno lavorato l'Italia, ma non solo, anche la Francia, e forti anche di quel dibattito che a livello europeo aveva portato appunto paesi come l'Italia e la Francia a considerare ormai, diciamo, mature quelle ricette per sconfiggere la crisi dell'Eurozona basate soltanto sul fiscal compact e sull'austerità, sulla disciplina fiscale. Quindi sicuramente questa è la novità. I ceti medi, la paura, il riferimento alle paure, e poi qui si introduce anche il corso del voto amministrativo tedesco e di queste formazioni, il partito Alternativa per la Germania che va a sorpassare la CDU nella sua roccaforte del Mecklenburgo è un fatto, diciamo, importante, anche se Renzi l'ha un po' sottovalutato e l'ha minimizzato dicendo il voto amministrativo ha dei connotati territoriali e resta un voto amministrativo. È un fatto importante. La paura è la stessa citata da Theresa May, la premier inglese, al suo primo G20, che ha detto che la paura è stata anche la molla che ha fatto vincere il Brexit, il referendum sulla Brexit in Gran Bretagna. Quindi come sconfiggere la paura è un tema politico e al tempo stesso economico. Renzi ritiene che questo si debba fare con una misura incisiva a favore dei ceti medi. Ha citato ovviamente la sua iniziativa degli 80 euro o comunque tutto quello che è l'alleggerimento fiscale previsto dal suo governo. Non so se gli altri, non vi è traccia di altre iniziative di altri governi su questo singolo tema specifico, però sicuramente in molti casi sia il presidente cinese Xi Jinping che lo stesso Obama avrebbero citato nel giro di tavolo, nei loro interventi, le riforme italiane come un modello, un benchmarking da seguire. Quindi questi sono gli aspetti, poi ognuno ovviamente sul fronte meglio, eccetera. Io vorrei ringraziare tutti e due, perché so il traffico, sia il professor Togati, con cui concordo in parte, in altro giustamente sono meno d'accordo, che Gerardo Pelosi. Torneremo dopo il traffico a parlare di scenario economico, lo dico anche a chi mi sta scrivendo. Mettiamoci però d'accordo subito, visto che siamo ripartiti col palinsesto autunnale. Non è che ogni volta che faccio sentire la voce del Presidente del Consiglio, che resta il Presidente del Consiglio, mi devo beccare del piduista, mafioso, ignorante, pezzo di... ok? Perché questo programma fa l'attualità, e se il Presidente del Consiglio parla, il Ministro dell'Economia parla, ascolto, come abbiamo sempre fatto in questi 15 anni, fa sentire la voce del Presidente del Consiglio, qualunque esso sia. No? Ripartiamo in maniera un po' più costruttiva. Grazie al professor Togati e a Gerardo Pelosi. Traffico. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna, Asiago 8-11 settembre. Vi presento Focus Economia. minuti, prima di restare sui temi di carattere europeo ed italiano, diamo l'aggiornamento però di borsa. Prima seduta della settimana, indici piatti, piattissimi, che bello, si fa presto oggi. Parigi meno 0,02, Francoforte meno 0,1, Londra meno 0,2, Milano più 0,04. Buzzi Unice meno 2,20, Monte dei Paschi meno 1%, Jux meno 1%, Salvatore Fragamo meno 0,90, Exor meno 0,80 come Luxottica e Generali. E invece il Banco Popolare più 4,80, Pop Milano più 2,50, Moncler più 1,50, Saipem più 1,30, Azimut più 1,20, Unipol più 1%, Tenaris più 0,80 come Eni. E il commento è sempre con Radio Corriere Sole 24 Ore, Wall Street, l'abbiamo detto in apertura, è chiusa, oggi c'è il Labor Day. Eleonora Micheli, buonasera, bentornata. Buonasera. Allora, giornata di quelle che resteranno negli annali, ma ci sta tutta. Bancari un po' contrastati, mi sembra che forse la notizia vera oggi la dia Banco Popolare, che alla fine ha chiuso quasi sui massimi, più 4,80%. Sì, nonostante la chiusura senza spunti, come hai detto tu, delle borse europee e anche di Piazza Affari, il Banco Popolare sin dalle prime battute si è messo in evidenza, ha registrato la performance migliore del FTSE MIB, e questo perché si avvicinano le assemblee, probabilmente saranno convocate a ottobre, ancora non si conoscono le date, comunque del Banco Popolare e di BPM, assemblee chiamate a varare la fusione tra i due istituti. Ieri soprattutto il presidente di BPM Rossi ha detto che si lavorerà perché, cioè, appunto, i manager lavoreranno, perché anche coloro che in assemblea hanno intenzione alla fine di votare contro la fusione si convinceranno a votare a favore della fusione, quindi ha fornito queste assicurazioni che così sono state apprezzate dal mercato. Invece il resto delle banche è stato abbastanza contrastato e debole. Allora, fammi dare una notizia di servizio, perché l'estate è definitivamente finita. Allora, che fine hanno fatto? Attenti a quei due, i conti della Belva davano fastidio a Renzi e quindi i vostri presidenti e direttori hanno eseguito da buoni camerieri italiani. Guardi, intanto immagino che intendo dire attenti a noi due, anche se io potrei dire attenti a quei due, e mi riferisco a Milan e Giannino la mattina. Oscar Giannino in diretta, non è mai stato in discussione, ha anche smentito su Facebook le voci e le mail che sono arrivate, incluse al sottoscritto, inclusi gli insulti che avete scritto anche al sottoscritto, che avremmo cacciato Giannino in quanto antirenziano. Come vedete, le chiacchiere stanno a zero. Oscar era in diretta questa mattina, era in diretta alle 16:30, e i conti della Belva sono assolutamente in programma, quindi insomma. E comunque fare il cameriere, lo dico, ma non è offensivo, l'unica cosa che non trovo offensiva della sua mail è il cameriere, è una professione molto interessante, ci mancherebbe, non per come l'intende lei chiaramente. Andiamo avanti con la borsa invece, però sai, devo dare anche ogni tanto, dopo che per due mesi vengo insultato per cose inesistenti. Allora, Pop Milano più 2,5%, Moncler più 1,5%, Saipem più 1,30%, dicevamo, e Azimut più 1,20%. Mentre sul fronte non bancario, su A2A c'era qualche riflessione oggi. Sì, esatto. E vorrei anche un commento sui petroliferi, visto l'accordo, anche senza risultati in questo momento, tra Arabia Saudita e Russia. Sì, per quanto riguarda 2A, alla fine i titoli hanno perso lo 0,66%, ma c'è grande attenzione sulla società, soprattutto dopo che Valotti, il presidente di A2A, ha ricordato proprio dal forum Ambrosetti di Cernobbio che a breve si dovrebbero incontrare i sindaci di Milano e di Brescia per definire i nuovi patti parasociali per la società, ma soprattutto c'è grande attesa per comprendere le mosse dei due comuni. Ricordiamo che i comuni di Brescia e Milano sono i principali azionisti, detengono oltre il 50%, e chissà, siccome i patti scadranno a settembre, potrebbero decidere di scendere sotto il 50%, il che ovviamente potrebbe inizialmente pesare sulle azioni, ma poi potrebbe dare più appeal alla società, che diventa contendibile. È tutto da vedere. A breve sicuramente usciranno delle indicazioni, per cui anche nelle prossime settimane è possibile che A2A rimanga sotto la lente. Per quanto riguarda i petroliferi, come il petrolio, hanno un po' rallentato il passo, nel senso che il petrolio questa mattina era arrivato a guadagnare oltre il 5% dopo che si era diffusa la notizia che sarebbe stato siglato un accordo tra Arabia Saudita e Russia, ma non si conosceva appunto il contenuto dell'accordo, anzi si scommetteva sul fatto che venisse annunciato un taglio alla produzione petrolifera, cosa che non c'è stata invece. Il WTI in questo momento sale, ma solo dell'1,5%, e quindi anche tutti i titoli petroliferi sono ben impostati. Eni ad esempio più 0,8%, però non hanno fatto nessun balzo. Allora, Vita, società editoriale, miglior titolo più 14,80 con Gefran più 14,30 e Gala. Peggior titolo Toscana Aeroporti meno 4,10 come Cofide meno 3,34. Mi chiedete anche se tornerà la zanzara. Facciamo così: ascoltate la radio a 18:30, scoprirete se c'è la zanzara o no. GR24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Focus Economia. Sono 18:07, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso parliamo di altri due temi a corollario di quanto abbiamo già detto sul G20, da un lato, sia il fronte internazionale che il fronte invece più italiano. Sì, stiamo rinnovando tutte le basi del programma, mi chiede un ascoltatore. Sì, certo, nuova stagione, nuove basi. E allora, all'interno di questa, diciamo, orientamento, noi abbiamo trasmesso venerdì da Cernobbio, poi abbiamo seguito come Radio 24 chiaramente tutti i lavori del workshop Ambrosetti anche quest'anno, e al di là di quanto emerso su temi specifici, referendum piuttosto che scenari economici o anche le frontiere, bellissime, non possiamo parlare della ricerca scientifica, anche di questo si è parlato, la sensazione è, e la critica che è arrivata da alcune parti è stata: sì, però l'orientamento cautamente ottimista dei partecipanti al workshop è dovuto al fatto che loro rappresentano anche aziende sane, rappresentano una parte, diciamo, più dinamica e quindi leggermente scollegato con il resto del paese. Chiedo intanto una sintesi complessiva di quello che è emerso e poi una risposta a questa domanda con chi lo organizza il workshop, e quindi Valerio De Molli, buonasera innanzitutto. Buonasera dottor Barisoni, buonasera a tutti i radiospettatori. Allora, da questo punto di vista, intanto, visto che voi ogni anno presentate un indicatore composito, no, sullo scenario economico, c'è o lei rinviene questo scollamento tra l'umore, le previsioni, le sensazioni dei partecipanti a questo workshop che ogni anno rappresenta la riapertura di tutta l'attività economico-finanziaria e il resto del paese? Ma guardi, non credo, nel senso che prima di tutto per quanto riguarda il nostro forum, lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive è un evento che è molto internazionale, quindi ragioniamo di un audience che è fatta da presidenti, amministratori, delegati di realtà importanti un po' da tutto il mondo. Quest'anno avevamo rappresentanti dal mondo arabo, rappresentanti dalla Russia, una quindicina di capi azienda dagli Stati Uniti, molte varie aziende europee, quindi non è solo italo-italico, diciamo così. Mm-hmm. Per quanto concerne invece il sentiment sull'economia italiana, le confermo una misura, una valutazione positiva, tutto sommato, ma questa positività, che oltretutto è misurata sul piano quantitativo dall'indicatore di sentiment che ormai da molti anni facciamo ogni trimestre, è rallentato rispetto all'ultima rilevazione di tre mesi fa, e quindi rimaniamo in territorio positivo ma più contenuto, che si avvicina quasi allo zero, la linea della demarcazione che poi ci porta in territorio negativo. Nello specifico, i 350 membri del club degli European House Ambrosetti, che sono le principali realtà, i principali imprenditori e manager che operano in questo paese, sia sul versante delle aspettative economiche a breve, mm-hmm, che sul versante dell'occupazione, sono tendenti alla linea dell'indifferenza, e quindi territorio leggermente positivo ma indifferente. Resta invece agli stessi livelli dell'ultima rilevazione e quindi ai livelli più alti degli ultimi 4 anni, l'indicatore che stabilisce le aspettative di investimento di questo gruppo di imprese. E io faccio presente che negli ultimi anni questo nostro indicatore si è dimostrato in chiave previsionale e predittiva, diciamo così, un termometro che ha meglio misurato anche rispetto ad altri istituti l'andamento del ciclo e quindi molto affidabile da questo punto di vista. Quindi anche il vostro indicatore, diciamo, riflette, penso all'Istat di oggi che parla di una crescita di un'economia italiana che ha interrotto la fase di crescita condizionata dal lato della domanda, dal contributo negativo della componente interna, dal lato dell'offerta, dalla caduta produttiva del settore industriale, battuta d'arresto del mercato del lavoro a luglio. Cioè la sensazione è che, e devo dire che è emersa in parte, che insomma, tutti si stiano orientando verso un secondo semestre fermo, o no, De Molli? Sì, questo lo condivido abbastanza. No, lo dico adesso prima che mi arrivino poi le critiche. Cioè, poi il secondo semestre, ormai siamo a settembre, parliamo degli ultimi 3-4 mesi, prego. Esatto, degli ultimi mesi dell'anno. C'è un orientamento attendista, del resto è anche comprensibile perché con tutto il carico politico che si è voluto dare a questo tema del referendum e con l'annuncio che peraltro il primo ministro Renzi ha abbastanza confermato a Cernobbio, e cioè che in caso di vittoria del no lui potrebbe rassegnare le dimissioni, è evidente che una minaccia del genere, creando discontinuità e instabilità, fa bloccare le decisioni di investimento da parte di chi deve guardare più sul medio lungo. Certo, devo dire, per essere corretti, che la connotazione politica, cioè l'ha data il Premier per primo a suo tempo, poi adesso diciamo in parte correggendo la rotta, ma resta, come si diceva prima. No, ma lo aggiungo io, non è una critica lei, De Molli. Il primo a legare a questo referendum un significato totalmente politico sulla continuazione del governo Renzi è stato lo stesso Presidente del Consiglio. Non c'è dubbio, detto, secondo me ha sbagliato. Compiendo un errore clamoroso, ormai penso che l'abbia riconosciuto lui stesso. Anzi, l'ha anche riconosciuto in un'intervista al Corriere della Sera quest'estate, se non ricordo male. Detto questo, De Molli, c'è sì il referendum italiano, ma come ricordavamo prima con Sdogati, c'è la batosta che è arrivata in Germania e le elezioni tedesche l'anno prossimo, c'è la sfida Trump-Clinton, la Francia, ripeto, per la terza volta, non è messa molto meglio quando uno come Macron si sfila per fare il suo partito, e vedremo. C'è un'incertezza complessiva. Mi dà, secondo lei, uno o due elementi realmente positivi usciti da questa sessione dei lavori? Ma guardi, il 51% dei presenti... Ah, c'è anche la Spagna, giustamente, mi scrivono gli ascoltatori, avete ragione. Chiedo bene, ho dimenticato di citare anche la Spagna. E allora non dimentichi l'Inghilterra, che sono in una crisi di identità assoluta. Prima annunciano una Brexit, poi forse ci ripensano, poi la rimandano, non si capisce niente. E quindi in effetti, alla luce di tanti fatti ed evidenze, il nostro paese per una volta sembra essere il best in class sul piano della presunta stabilità, così sembra. Ecco, figurati il resto della classe. Ma qualche elemento positivo, io per esempio personalmente ho molto apprezzato, ma non c'entra nulla con questo programma, tutta la sessione dedicata agli scenari, alle frontiere che sta raggiungendo la ricerca medica nella lotta ai tumori e al cancro, bellissimo devo dire, perché ogni tanto si respira anche capendo che questo mondo non sta portando solo un insieme inenarrabile di sfighe e di incertezze, ma anche la risoluzione di, o il tentativo di risolvere problemi epocali. Però restando sul tema economico, De Molli, per concludere, a riprova del fatto che nella nostra realtà a Cernobbio tendono a partecipare le imprese migliori e più performanti, io le confermo che nel sondaggio che abbiamo diffuso in sala il 40% di loro annuncia di volere crescere uguale o più del 10% gli organici, e quindi si dichiarano propensi ad aumentare le assunzioni in modo significativo, e solo il 20% lo riduce entro il 10%. Questo è un dato, credo, interessante sulla propensione, diciamo, a fare, a crescere. E come le anticipavo, sul piano del nostro indicatore relativo agli investimenti è ben il 60%, cioè quasi due terzi di loro intende investire far crescere gli investimenti sopra il 10%, addirittura il 9% di loro oltre il 20%, e la mappa di dove, alla domanda dove intende investire, il 40% si concentra in Italia, anche perché alcune, come c'erano i vertici di Ferrovie dello Stato, di Telecom, di altri che hanno prevalentemente interessi in Italia evidentemente, quindi 40% Italia, 23% Europa, 10% Nord America. Devo dire che anche avendo avuto ospite sia il numero uno delle Ferrovie dello Stato venerdì dal vostro workshop che il numero uno dell'Enel Staracci, anche lui ha confermato la logica del 60% fuori dall'Italia, 40% dentro l'Italia. Una cosa però, De Molli, proprio i dati che lei citava sulle volontà di assumere o non assumere dimostrano che lì c'è un distacco col resto del paese, ma lo citava già lei, cioè queste sono imprese già virtuose e che vanno bene, e quindi i dati che arrivano sono più positivi rispetto a quelle che avremmo se facessimo un sondaggio verso tutte le imprese del paese. Io ringrazio anche lei, anche Valerio De Molli, appunto, che è come workshop Ambrosetti, come studio Ambrosetti, è l'organizzatore dell'appuntamento annuale. Grazie a Valerio De Molli. Allora andiamo adesso verso il traffico. È vero che la Spagna è senza governo, il PIL va bene, lo sappiamo, è un paradosso che commentammo anni fa con il Belgio, perché il Belgio restò, non mi ricordo più quanto tempo, senza un governo e l'economia non se ne accorse, però non si può dire semplicemente che siccome il PIL spagnolo va bene la Spagna può restare senza governo. Il problema è che bisognerà avere, a mio avviso, i nervi molto saldi da qua a metà dell'anno prossimo, a quando capiremo anche cosa succederà in Germania come intenzione di voto, e soprattutto gli appuntamenti per noi fondamentali del referendum e delle elezioni negli Stati Uniti. Comunque 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Andiamo sul traffico. Focus Economia. minuti, ultima parte di Focus Economia. Vedo alcuni messaggi sulla Spagna. Perché la Spagna va benissimo? Oddio, va benissimo sul PIL, non sulla disoccupazione. Ha fatto delle operazioni, ha messo per esempio in sicurezza, o meglio, ha risolto il problema dei non performing loans, delle sofferenze bancarie, delle casse di risparmio. Ha chiesto aiuto all'Europa, cioè ha fatto le scelte a quel tempo più lungimiranti. E per esempio non ha un sistema del credito così ancora in mezzo al guado come il nostro. Dopodiché attenzione a prendere la Spagna come modello. Detto questo, andiamo dalla Spagna in Germania, perché insomma in Mecklenburgo molti italiani si sono svegliati scoprendo un nuovo land tedesco. Insomma, il partito della CDU, quello di Angela Merkel, è sceso al 19% dei voti, è stato anche superato dai populisti di destra anti-migranti, quelli di Alternativa per la Germania, Alternative for Deutschland, che hanno ottenuto il 20,8%, hanno vinto i socialdemocratici col 30,6% dei voti. La CDU ha quindi perso 4 punti percentuali rispetto al 2011, dove già aveva avuto un risultato brutto in Mecklenburgo. L'SPD, i socialdemocratici, ne hanno persi 5 di punti percentuali. Tra l'altro, se ho ben capito, era la prima volta che Alternativa per la Germania si presentava a un'elezione di un parlamento regionale. Molto scontenta Angela Merkel per come sono andate le cose, occorre riconquistare la fiducia anche sull'economia. E poi mi prendo la piena responsabilità umanitaria, inclusa l'integrazione per la gestione dei migranti, ma vi saranno anche le espulsioni, coloro che non hanno diritto di rimanere dovranno essere espulsi. E poi il leader della destra populista Petri ha detto Angela Merkel si rovescia da sola, quindi Merkel e SPD illudono i cittadini che si tratti di finanza, di crisi dei migranti, sono sul punto di liquidare questo paese, per questo che le persone votano noi. Per le politiche poi punteremo sul tema dell'euro e dei migranti, questo sempre Alternative for Deutschland. Alessandro Merli, corrispondente sulle 24 ore da Francoforte, buonasera e bentornato innanzitutto Alessandro. Buonasera, grazie. Vorrei vederla così, adesso, per carità, uno può anche preoccuparsi di quello che succede al Parlamento e al governo tedesco, ma vorrei, non per peccare di provincialismo, occuparmi delle conseguenze per l'Italia. Cioè, un'Angela Merkel che prende una scoppola come questa vuol dire che si avvia a fare una campagna elettorale tornando sui cercando di rubare voti a Alternative for Deutschland, quindi atteggiamento ancora più critico verso l'euro e forse anche più duro verso i migranti? Ma non so se si possa leggere in questo modo. Io credo che in Europa la Merkel abbia bisogno di appoggi e lo cercherà anche nei confronti dell'Italia. Abbiamo visto due incontri con Renzi nel giro di una settimana, di cui il primo, cui ha partecipato anche il presidente francese Hollande, è uscita la Gran Bretagna, che tradizionalmente stava abbastanza vicina alle posizioni tedesche. L'est europeo, che storicamente era alleato della Germania dopo la vicenda dei migranti, si è schierato direi molto nettamente, molto duramente contro la Germania, quindi la Germania ha bisogno di alleati in Europa. Non credo che voglia, almeno il tono per esempio di questo incontro con Renzi della settimana scorsa a Maranello, è stato un tentativo di non creare grossi problemi a Renzi, sapendo che l'alternativa per la Germania, chiedo scusa il gioco di parole, che l'alternativa in Italia dal punto di vista tedesco sarebbe forse peggiore. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è però, come sottolineavi, è che ovviamente sarà meno incline forse a fare grandi concessioni, perché si trova aperto un fronte sul fianco destro che in Germania, non dimentichiamo, non è mai esistito, perché non c'è mai stato un partito alla destra dei democristiani dal dopoguerra in poi. Ma credo che il vero problema della signora Merkel in questo momento non sia tanto questo, sia il fatto che è sempre stata vista come una persona che magari richiedeva tempo, che valutava i pro e i contro, però che alla fine prendeva sempre le decisioni giuste, almeno dal punto di vista dei tedeschi. Era in controllo della situazione. Ora, con questa vicenda dei migranti, il governo è apparso fuori controllo, cioè di non essere in grado di controllare e di dare una linea unica, prima li accogliamo tutti, poi esatto, certo. E questo ha contribuito a una perdita di credibilità, e a questo che si riferiva oggi dalla Cina, dal G20, il cancelliere Merkel, quando diceva dobbiamo lavorare intensivamente per ricostruire la fiducia, eccetera eccetera. Quindi, ecco, Alessandro, c'è però c'è un tema, quello che noi abbiamo visto da altre parti, che quando tu cerchi, è vero che la Merkel si posiziona nel centro cristiano, appunto, CDU, dello schieramento politico tedesco, però quando tu cerchi di rincorrere l'originale, mi riferisco a Alternative for Deutschland in questo caso, la gente comunque sceglie l'originale, non la copia. Voglio dire, sarebbe indicato per Angela Merkel in questo momento iniziare a cercare di rincorrere alcuni temi, l'atteggiamento con l'Europa, l'atteggiamento nei confronti dei migranti tipici del populismo, insomma, della linea politica di Alternative for Deutschland, o non le converrebbe dire quelli sono dei pazzi che non sanno, fanno solo gli slogan, non saprebbero gestire un processo del genere, noi rappresentiamo la serietà e la sicurezza? Cioè, quanto può convenire Angela Merkel cercare di riposizionare la CDU su elementi che vengono riconosciuti come però precipuamente di Alternative for Deutschland? Io non mi aspetto che la signora Merkel si metta a rincorrere Alternative for Deutschland. Forse il problema che ha avuto in questa prima fase della vita di questo nuovo partito è stato sottovalutarlo, ma non credo che ci sia la volontà di andarlo a rincorrere. Non dimentichiamo che Alternative for Deutschland ha preso delle posizioni molto molto estreme nei confronti dei migranti. Anche gli alleati della signora Merkel, che volebbero una linea più diciamo severa nei confronti dei migranti, si limitano a dire che vorrebbero un tetto al numero dei rifugiati accolti, quindi parliamo ancora di una distanza molto molto ampia. Io credo che i problemi alla signora Merkel li creeranno i suoi alleati, che ovviamente più si avvicinano alle elezioni e più vogliono in un certo senso prendere le distanze per conquistarsi uno spazio elettorale. Lo abbiamo visto in questi giorni Sigmar Gabriel, che è il leader del Salvo Caci, ma è anche il vice cancelliere di questo governo. Lo abbiamo visto per tutti i mesi scorsi con Horst Seehofer, che è il capo dei Cristiano Sali bavaresi, quindi il partito che dovrebbe essere il partito gemello, certo, dei democristiani di Merkel. La Merkel ha detto oggi non cambiamo rotta. In realtà il cambiamento di rotta in parte c'è già stato, nel senso che dalla dichiarazione ce la possiamo fare per dei migranti, che esattamente di un anno fa sono state prese diverse misure che tendono a limitare, certo, per esempio i congiungimenti familiari, che appunto mettono maggior accento, come ho citato, sulla questione dei rimpatri e anche delle espulsioni. Quindi non siamo allo stesso punto di un anno fa, semplicemente però la percezione dell'opinione pubblica è ancora che la situazione sia quella che era alcuni mesi fa, quando arrivavano decine di migliaia di persone. No, ma tra l'altro l'accordo con la Turchia, per quello che l'accordo con la Turchia per quello che riguarda la frontiera, diciamo così, tedesca, dei flussi migratori, in parte sta funzionando. Grazie anche Alessandro Merli, in collegamento con noi da Francoforte. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Io vi lascio la nostra programmazione e noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.